Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari radioascoltatori. Ebbene, oggi sentirete anche una voce un po' particolare, mi scuso, ma i mali di stagione mi hanno colpito. Ebbene, oggi faremo un viaggio molto particolare in tutta la penisola. Andiamo a scoprire la cucina vegetariana, la cucina vegana, la cucina di tutto crudo, la cucina di tutti, diciamo, gli ingredienti organici. Ebbene, questo viaggio è un viaggio molto particolare perché sentiremo delle storie anche molto, molto importanti. Devo dire che queste cucine, a differenza da, diciamo, quelle che vengono considerate in passato, ma anche oggi sono, diciamo, in essere, la cucina tradizionale o la cucina innovativa, hanno delle storie perché molto particolari, perché i personaggi, diciamo, vivono in prima persona questo, diciamo, questa realtà, quindi sono anche storie personali di stili di vita e anche di concezioni filosofiche molto molto particolari. Ebbene, io voglio cominciare questo viaggio addirittura da Matera, dalla città dei Sassi, dove sentiremo anche qui una bellissima storia di un ristoratore. Ma soprattutto prima voglio fare un appello, perché stiamo cercando disperatamente il personaggio numero uno della cucina tutto crudo, Vito Cortese. Non riusciamo a rintracciare, abbiamo un numero errato. Bene, Vito Cortese, se sei all'ascolto, batti un colpo, perché ti aspettiamo, perché vogliamo veramente raccontare anche la tua storia del raw food, che è molto ma molto interessante. E allora andiamo a Matera, andiamo da Bonifacio Castello. Bene, Bonifacio Castello ha un ristorante appunto a Matera che si chiama Pianeta Verde. Ma io voglio far raccontare da lui la storia, appunto, da come è arrivato a creare questo ristorante, a fare il cuoco in questo ristorante, dopo aver fatto l'Accademia delle Belle Arti, quindi essere stato, diciamo, un artista e avere anche la laurea in lettere moderne. E buongiorno Bonifacio Castello. Buongiorno Paolini, un carissimo saluto dalla città dei Sassi, che in questo momento è meravigliosa, c'è uno scenario a dir poco surreale perché si sta imbiancando tutto. Bene, bene. La neve. Immagino che tra i Sassi sia una cosa spettacolare. Sì, altamente suggestiva, devo dire. Infatti invito tutti i radioascoltatori, quando prenderanno, diciamo, un po' le loro ferie, a fare un salto a Matera, perché ne vale veramente la pena. Grazie Bonifacio dell'invito. Io voglio però partire, innanzitutto do il numero verde 800 24 0024, sms 349 238 6666, ai radioascoltatori che vorranno appunto intervenire su questo argomento. Voglio partire da questo. Dunque, lei, so che era partito per Berlino per studiare, e poi è ritornato a Matera, ma lei da artista, da pittore, e, diciamo, oggi fa il cuoco e ha aperto un ristorante. Cosa è successo? Allora, praticamente faccio una brevissima introduzione, cercherò di essere ovviamente molto sintetico. Sì, sì, infatti non abbiamo un'ora, mi raccomando. Perfetto. Allora, io ho iniziato praticamente ad avvicinarmi alla cucina vegetariana e vegana vivendo in Toscana, che è una terra ovviamente molto ricca di tradizione e cultura da questo punto di vista. Io ho fatto le mie formazioni, ovviamente, ho fatto la mia formazione artistica e poi ovviamente anche la facoltà di lettere e filosofia. Dunque, avevo inizialmente l'idea di portare avanti il progetto dell'arte, per vedere se riuscivo, diciamo, anche nel mio piccolo ad avere, diciamo, un minimo di spazio, però poi dopo aver fatto un po', ecco, di trafile, come fanno tutti gli artisti all'inizio, diciamo la classica gavetta, visto che purtroppo non si riusciva ad avere un risultato a livello economico abbastanza soddisfacente, così ho deciso, data anche la mia passione per la cucina che coltivo sin da bambino, perché me l'ha trasmessa mia madre, di dare vita a un progetto in cui la mia creatività, la nostra creatività, perché c'era anche quella di mio padre, anche quella ovviamente di mio zio, con cui lavoriamo insieme, siamo affiatati, siamo stati, diciamo, un grande team fino a poco tempo fa, perché purtroppo mio padre è scomparso, abbiamo dato vita appunto a questo ristorante, a questo ristorarte vegetariano e vegano. Per quale ragione? Prima di tutto per una scelta anche principalmente salutistica e anche morale, perché fondamentalmente amiamo gli animali e ovviamente non vogliamo loro che si faccia del male e non vogliamo ovviamente cercare di portare avanti, come dire, un progetto che viene portato oramai da altre persone. Abbiamo cercato di distinguerci, offrire anche al territorio, alla città, alla regione, qualcosa di completamente nuovo, appunto introducendo i principi della cucina vegana, che culturalmente purtroppo qui al sud Italia ancora fanno fatica a penetrare. Beh, le posso dire, guardi, che io ho fatto una ricerca su quasi tutte le guide gastronomiche, ebbene di ristoranti, diciamo, vegetariani e vegani in Italia, almeno di quelli censiti dalle guide, ce ne sono solo tre. Quindi al sud io ho trovato solo il suo, quindi, perché devo dire che è nella mia guida dei ristoranti del Sole, quindi sì, per infatti. Questo ho fatto. Ecco, volevo chiederle però, diciamo, lei è arrivato a Matera, ma a Matera, cioè, qual è stata la reazione, diciamo, dei consumatori, di chi viene al ristorante? Allora, la reazione per quanto riguarda il pubblico materano, posso dire sostanzialmente che è stata positiva, anche se al momento ancora, diciamo, come dire, da parte della gente del posto non si è sviluppata questa passione. C'è stata, diciamo, la curiosità di sperimentare appunto i principi della cucina vegana e saltuariamente queste persone mi vengono ovviamente a ritrovare. Ho lavorato molto comunque con i turisti, dunque ho offerto ai turisti che erano qui di passaggio o venivano esclusivamente per visitare Sassi la possibilità di poter, diciamo, consumare un pasto vegetariano vegano, anche per tutte quelle persone che hanno fatto questa scelta e che fino a poco tempo fa non avevano nessuna alternativa venendo a Matera. Bene, io Bonifacio la ringrazio della sua testimonianza e le auguro buon lavoro. Ricordo il numero verde 800 24 00 24 per i radioascoltatori. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, abbiamo sentito, diciamo, un esempio appunto di ristorante vegano addirittura a Matera, è la storia appunto di questo nostro ospite che da artista, appunto Vito Cortese, per problemi suoi, diciamo, filosofici di vita, è passato a fare questo, diciamo, tipo di cucina vegetariana, addirittura aprire un locale. Vedo che ho diversi sms. Sono Laura Cuccato, ho scritto due libri, due usciranno nel 2013, sulle ricette crudiste. Ebbene, come si dice, cade a fagiolo, perché ho detto che abbiamo rintracciato Vito Cortese. Vito Cortese, il suo movimento si chiama Crude Italy e si rifà, diciamo, alla scuola americana del raw food, dove io anni fa mi sono imbattuto in un bar di Los Angeles e ho anche un bellissimo libro sul raw food, ma erano, credo, 10 o 12 anni fa, ma vedo che, diciamo, che sta tornando qualcosa anche in Italia. Buongiorno Vito Cortese. Buongiorno Davide. Ma anche lei ha una bella storia, Vito, vero? Come è arrivato alla cucina del tutto crudo? Allora, sono arrivato, sì, per una scelta inizialmente di salute. Mi fu comunicato questo, cioè non avevo fatto una scelta inizialmente vegetariana, poi sono passato velocemente al veganesimo e poi un giorno si parla di questo modo di mangiare completamente crudo e lì fu colpito, perché c'era molto entusiasmo nella persona in cui me ne parlava e alla fine ho detto vabbè, provo, vediamo, mi incuriosisce com'è possibile poter mangiare tutto completamente crudo. Ecco, mi fai qualche esempio di qualche piatto? Allora, qualche piatto, possiamo, noi la chiamiamo la lasagna, che è un piatto, diciamo, uno dei più conosciuti, che è una lasagna di zucchine alla fine, perché nella nostra cucina non esiste glutine, non esiste pasta, la chiamiamo lasagna perché ci ispiriamo al classico piatto ed è fatto con queste zucchine tagliate in modo sottile con una mandolina e poi marinate, poi condite con una crema o un formaggio di noci macadamia o anacardi, poi facciamo un pesto molto classico senza il formaggio, perché anche la nostra cucina crudista è completamente vegana, e poi fatto con dei pomodorini o comunque dei funghi. Abbiamo anche la versione vernale, che invece della zucchina usa la zucca, perché nella nostra cucina rispettiamo anche le stagioni, molto importante per un discorso di salute anche. Poi cosa le posso dire? In questi giorni ho appena terminato un corso professionale 5 chef. Nella pasticceria facciamo anche il tiramisù. Il tiramisù dove c'è eccezione, che quello crudo non si dice. Il resto degli ingredienti sono. Pronto? c'è qualcosa che non funziona sulla, probabilmente sul telefono. Bene, cerchiamo di richiamare Vito Cortese, perché appunto non sentiamo assolutamente niente. Bene, abbiamo un altro ospite mentre stiamo ritracciando Vito Cortese. Comunque ricordo, numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E devo ora abbiamo con noi forse l'unico, anche abbiamo rintracciato di nuovo Vito Cortese. Ecco, ci stava parlando del tiramisù, Vito. Sì, stavo parlando del tiramisù, dove dicevo l'unica eccezione è il caffè, perché non riusciamo a farlo crudo, però è esclusivamente di base vegetale con ingredienti crudi, non usiamo soia, non usiamo nulla di pastorizzato, produciamo tutto noi in casa dalla base, che è fatta con della farina di cocco, della farina di mandorle e poi bagnato con del caffè. È una crema che è fatta anche lì con degli aromi per dare poi i vari sapori. Bene, Vito, rimanga con noi. Leggo anche un sms interessante. Io sono vegetariano e non mangio latticini. È difficile mangiare fuori perché non sono prese in considerazione semplici alternative al formaggio come creme di legumi, salse di frutta secca, eccetera. Bene, mangiare fuori penso che sia molto difficile, perché non ci sono molti ristoranti appunto che fanno questi tipi di cucine. E pongo questo interrogativo forse all'unico stellato italiano appunto che fa cucina vegetariana, ma ora la definirà lui la sua cucina, che è Pietro Lehmann del Gioia di Milano, forse uno dei personaggi più noti appunto di questo mondo. Buongiorno Pietro. Buongiorno Davide. Tu hai avuto varie fasi, sei passato, ora sei arrivato proprio a una cucina estrema, la cucina vegana, e sei passato da quella vegetariana a quella vegana. Sì, in realtà nel mio menu ci sono circa un 40% di piatti vegetariani e il 60% sono tutti vegani, quindi per me è uno spostamento naturale, nel quale nella mia evoluzione cerco di mantenere la qualità della sostanza anche da un punto di vista del buono, e poi quando ci arrivo facendo un piatto vegano allora inserisco un piatto vegano nel menù. Bene, rimani un secondo con noi che abbiamo radio ascoltatore Aldo da Pisa, sentiamo cosa ci vuole dire. Buongiorno Aldo. Buongiorno, buongiorno, scusate, soltanto che sobbalzo sentendo una trasmissione dove di solito si tratta di piatti ben cucinati, di chef seri, siamo al crudo. Il crudo ogni tanto va bene se ti mangi il crudo di pesce, ma la lasagna di crudo, mangiare tutto crudo fa parte di, come posso dire, un'estrema forma di edonismo, di guardarsi in ombelico e perdere completamente il contatto con la realtà. Bene, una parentesi la faccio io, caro Aldo. Bene, io credo che diciamo che il discorso non è assolutamente fuori luogo, perché anche il crudo ha la sua piacevolezza, quindi basta pensare che ci sono tantissimi piatti di crudo che da sempre fanno parte della cucina, quindi sicuramente il pinzimonio, credo mi sembra di aver sentito il suo accento toscano, il pinzimonio diciamo è una regola da mettere in tavola, quindi è tutto crudo, e che, quindi credo che abbiano, bisogna avere rispetto anche sicuramente per questi tipi di cucine, anche perché molti di questi tipi di cucine dietro hanno una loro filosofia di vita, quindi si può non condividere, ma bisogna assolutamente rispettare. Pietro, è molto difficile, ecco, a te voglio chiedere questo, in una città come Milano tu da anni diciamo sei aperto, fai questo tipo di cucina e in un certo senso per anni sei rimasto l'unico. Sì, ma difficile direi di no, anche perché c'è una vera trasformazione delle persone verso una direzione più salutista e quindi più vegetariana, e dunque ognuno aspira a mangiare una cucina sana, e quindi aperto la cucina che faccio nel mio ristorante. E anche negli anni ho proprio visto un'evoluzione in questo senso, anche un'accettazione sempre maggiore di quello che faccio. Oltretutto, da un punto di vista del ristorante vero e proprio, questo è anche successo, perché paradossalmente nessuno dei miei colleghi, andando in una direzione come questa, mi lasciano il campo libero, quindi alla fine tutto funziona bene e tutto mi fa sentire bene, perché cucinando una cucina che sono sicuro che fa bene al mio ospite, sono felice anch'io, che poi la sostanza del cuoco è quella, essere realizzato per quello che fa bene al proprio ospite, come non quello che magari gli gli fanno bene. Magari buono non gli fa bene, meglio che sia buono e che gli faccia anche bene come sostanza. Bene, leggo un altro sms, anche questo è critico, ma mi sembra giusto, leggerò l'uno e l'altro. Buongiorno Paolini, penso che la cucina vegana sia un po' come il carnevale, una maschera che nasconde la mancanza di corpo e di sapori, buona da assaggiare una volta tanto, ma solo come alternativa a cucine di ben più sostanza. Bene, io voglio rivolgere appunto, voglio chiedere un parere su questo sms a Vito Cortese. Buongiorno, di nuovo Vito. Buongiorno. Ma quello che proprio non tralasciamo sono i sapori nella cucina crudista, soprattutto io mi sono specializzato nella cucina crudista gourmet. Gourmet non intendo piatti sofisticati, ma intendo piatti gustosi, appetibili a chiunque e soprattutto equilibrati, equilibrati nei sapori, equilibrati nelle loro forme, consistenze e anche nelle temperature, perché molte volte si pensa alla cucina crudista mangiare un'insalata fredda o una macedonia, cosa che non è assolutamente vero. Bene, e ora rivolgo a Pietro Lehmann questa domanda di un altro sms. Secondo me l'unico atteggiamento sbagliato è quello: io mangio sano, tu no. Pietro, io mangio sano, tu no, cioè vuol dire nel senso che diciamo quello che è sicuro, che ormai è dimostrato scientificamente, che meno carne si mangia e meglio è per la salute, ormai è qualcosa di universalmente riconosciuto, e poi oltretutto è riconosciuto anche che il mondo vegetale è un mondo straordinariamente buono nel quale si può trovare ogni piacere, e dunque è una questione che non si pone nemmeno. Tendenzialmente tutti, se non diventiamo vegetariani, ma dovremmo andare in quella direzione, perché è molto meglio essere in buona salute che ammalarsi, e questa è la realtà dei fatti, e quindi dire mangio qualsiasi cosa in qualsiasi modo evidentemente non può mantenerci in buona salute. Se invece mangiando faccio delle scelte precise, questo mi porta lontano. Quando mangiamo dobbiamo sempre scegliere che cosa mangiamo per uno scopo preciso. Uno scopo è il piacere, che è sacrosanto, ma l'altro scopo è il benessere del nostro corpo, e non solo, anche della nostra psiche, perché quello che scegliamo di mangiare determina anche il nostro equilibrio psichico, che è anche molto importante. Se noi mangiamo un cibo, ad esempio, che è privo di violenza e che è compassionevole verso gli esseri, è un cibo che sicuramente ci fa meglio. Ad esempio, il primo comandamento dice non uccidere. Il vegetariano lo allarga anche a tutto il mondo animale, e quindi non uccide gli animali e si sente bene per questo, e dunque non va considerato solamente l'aspetto del piacere terreno, ma un piacere anche più elevato, un piacere più superiore che va comunque ricercato. Grazie Pietro. Sentiamo Silvano da Varese. Buongiorno Silvano. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io ho un piccolo contributo. Tempo addietro collaboravo con il Sacco di Milano e mi occupavo di malati terminali, poi sono finito a impiantare un'azienda agricola biologica e adesso facciamo biodinamica e siamo 5 aziende assieme. Io faccio dei mercatini del biologico e dei mercatini tradizionali normalissimi, e cerco di far vedere alle persone che io mangio verdure crude davanti a loro, le mie verdure che produco e che produciamo con le altre aziende. Una certa reticenza all'inizio c'è, ma vedo che la gente invogliata a provare in questo modo le verdure crude. Io sono molto molto propenso alle verdure crude e questa è la mia piccola testimonianza. Bene. E bisogna insistere con la clientela. Poi non sono molto d'accordo sul fatto che non si debbano uccidere gli animali, ok, ma è una mia filosofia e me la tengo per me, ok. Il gastronauta. Eccoci di nuovo tra cucina vegana, vegetariana, crudista. Ebbene, devo fare soprattutto una riflessione prima di continuare, perché mi sembra anche giusto. Abbiamo decine e decine di sms che sono veramente molto, come posso dire, spietati, molto crudeli contro le cucine, diciamo, vegetariane, quelle, diciamo, che non trattano carne, formaggi o pesci. E ne leggo uno: e le carote non le uccidiamo tirandole fuori dalla terra, non contiamo balle, semplicemente non hanno bocca per lamentarsi. dite che vi piace e ci guadagnate, stop. Scusi, ma la pasta al pomodoro, mi dica lei, cos'ha di cattivo, di aggressivo? Non capisco. Cioè vedo appunto da parte di chi scrive e magari non interviene a voce, così questo muro contro muro. Credo che questo sicuramente sia un fatto molto, molto speciale, perché uno può benissimo non condividere diciamo il tutto vegetariano, però può rispettarlo e viceversa. Uno può mangiare carne e può essere rispettato. Io mangio dell'uno o dell'altro, però non è che sia contrario all'una o all'altra cucina. Cioè ne prendo atto, continuo a mangiare quello che la mia testa mi dice di poter mangiare. Comunque continuiamo ancora, diciamo, sentiamo Alice da Roma, una radioascoltatrice. Buongiorno Alice. Sì, buongiorno. Io ho mandato anche un messaggio prima, sono vegetariana e non mangio latticini ed ho fatto questa scelta da circa un anno e volevo sottolineare il fatto che sicuramente è una scelta per la salute ed è una scelta anche per gli animali, però il motivo che mi ha spinto a fare questa scelta è il motivo ambientale, perché l'industria della carne e comunque dei derivati animali è una dei fattori principali di inquinamento, e se uno, insomma, io mi sono letta un paio di libri sulla faccenda ed è stato questo che poi mi ha portato a fare la scelta decisiva, insomma. Bene, una filosofia di vita, appunto, queste cose bisogna sicuramente rispettarle. E vedo un altro: è corretto imporre scelte estreme ai propri figli, scrive un altro radioascoltatore. Questo è un problema molto, molto importante. Sicuramente io non sono d'accordo che bisogna farli riflettere, bisogna poi farli scegliere. Ma ora sentiamo Maurizio da Milano, un altro radioascoltatore. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. Niente, io volevo intervenire per quanto riguarda il signor Pietro Lehmann del ristorante Ioia di Milano. Sì. Dove lui faceva presente che la sua cucina non era una cucina violenta, però volevo dire, io ho due figli vegetariani, quindi non posso permettermi di andare più di tanto nel suo ristorante, comunque il suo conto è molto molto violento. Però la mia domanda era questa: vorrei capire come si fa per mangiare un po' di soia, un po' di verdure e dell'altro e una bottiglia di vino e spendere 200 euro. Bene, mi spiace che Pietro non sia più in linea, però se cerchiamo di rintracciarlo. No, però, rintracciamo. Da capire questo. Sì, sì, lo rintracciamo e chiediamo la soia, appunto, non penso che così più tanto. Questo suo intervento. L'uovo apparente, la sua specialità, l'uovo apparente fatto con delle carote e delle Bene, altre cose. Io cercherò di rintracciarlo se è ancora disponibile, però io credo che ci siano anche qui delle materie prime, insomma, che devono essere scelte, che hanno un certo costo. Ma io voglio rivolgere anche questa domanda a forse uno che è stato allievo di Pietro Lehmann ed è uno chef riconosciuto di cucina vegana molto importante, ha scritto anche diversi libri. Abbiamo con noi Simone Salvini. Buongiorno Simone. Buongiorno a tutti. Simone, buongiorno, ecco, ai colleghi. Volevo chiedere a te, prima di passare magari a qualche altra domanda, cioè la cucina vegana, la cucina vegetariana, hanno costi alti di materie prime, quindi... Beh, le materie prime sono scelte con attenzione. Di solito scegliamo prodotti biologici, prodotti anche biodinamici in molti casi. E, cosa c'è che incide? Sicuramente c'è da lavorarci sopra. Mentre una fettina di carne la si compra e la si cuoce in padella, in un attimo le verdure vanno prima pulite, vanno tagliate e poi successivamente vanno cotte. Magari ci possono essere delle fasi di lavorazione maggiori, però insomma la materia prima non è costosissima come principio. Ecco, volevo aggiungerti questo: tu appunto sei uno dei rappresentanti di punta, anche se non hai un ristorante stabile, ma diciamo fai serate e facevi anche serate in alcuni ristoranti. Volevo chiedere, tu sei stato da Lehmann, quindi diciamo hai avuto una scuola molto particolare, ma tu sei arrivato attraverso una tua prima filosofia di vita a questo tipo di cucina o sei partito proprio volendo fare diciamo cucina di questo genere? Io volevo andare in Africa e ci potevo arrivare attraverso due strade, o facendo medicina o facendo cucina, perché volevo andare a aiutare i poveri e ho scelto la strada più breve. Volevo cucinare cibo vegetariano a tutti i costi, per me non esistevano altre tradizioni culinarie e quindi ho scelto il più grande, ho scelto di seguire Pietro Lehmann, che ho sentito prima intervenire e ho con lui fatto un bellissimo percorso, tant'è vero che poi lui mi ha fatto ricoprire la carica di chef del suo ristorante e abbiamo fatto delle cose, a mio avviso, assieme straordinarie. Lui è il più grande di tutti. Io, nel mio piccolo, adesso risiedo a Roma, dove ho un ristorante a tutti gli effetti, quindi adesso ti aggiorno. Va bene, messo aggiorno. Sì. Si chiama Ops questo ristorante? Si chiama Ops, sì, sì. È un ristorante, a mio avviso, divertente, perché è molto diverso dal Gioia. È un ristorante che così serve il cibo a buffet, dunque il cliente decide in maniera democratica. Se ha molta fame prende molto cibo, se ha poca fame, prende poco cibo, se ha molta fame molto cibo, e il conto è conseguenziale, quindi funzionale al cibo che uno consuma. Di stampo vegetariano, anche se direi che adesso il 90% sono preparazioni vegane. Bene, sentiamo Roberto da Bologna, radioascoltatore, rimani con noi, Simone. Buongiorno a tutti, bravi perché esplorate la cucina da tanti punti di vista. Credo che vada rispettata qualsiasi scelta, e soprattutto una scelta di consapevolezza come questa, perché chiunque mangia, e io vi parlo da una terra in cui la cultura culinaria è certamente più vicina al mondo del grasso e della carne di maiale, dei tortellini e quant'altro, deve avere la consapevolezza di quello che si mette dentro e di quello che poi diventerà lui. Se noi siamo quello che mangiamo, si fa presto a fare i conti. La cosa che mi chiedo, poiché non ho cultura in questo senso, è volevo sapere i costi per approcciare a questo tipo di cucina. Vi chiedevo anche, siccome mi hanno detto che il ristorante Gaia o Gioia è famoso, quanto si spende a mangiare in quel posto? Potete darmi questa indicazione? Bene, guarda, io sto cercando di rintracciare Pietro Lehmann, appunto per avere sia la risposta all'altro radioascoltatore a questo. Però diciamo che i costi del cibo vegano già Simone Salvini ci aveva così dato un anticipo. Io ora invece voglio chiedere a Francesco Favorito, che è un altro ospite che abbiamo, che è un pasticcere che usa appunto prodotti gluten free e organici, quando diciamo nella sua produzione, e tra l'altro sta per organizzare il sabato 9 una manifestazione, il cioccolentino, cioccolato organico per San Valentino. Voglio chiedere a Favorito appunto se i costi dei prodotti gluten free e organici sono molto alti. Prego. Buongiorno da Terni. Il cioccolentino è iniziato proprio in questi minuti, e quindi siamo già qui a fare lezione per quanto riguarda il prodotto gluten free e i prodotti organici. Sì. I prezzi sì, sicuramente sono nettamente più alti del discorso convenzionale, e ovviamente hanno una qualità particolare. Prima di tutto sappiamo che l'organico deve essere coltivato con certi tipi di caratteristiche, perché altrimenti non possiamo chiamarlo organico. Stesso discorso vale anche per i prodotti gluten free e anche per i prodotti, diciamo, che per fatti per intolleranza alimentari, quindi senza lattosio, senza proteine del latte e cose va. È ovvio che cosa noi possiamo dire in questo settore? Possiamo dire che mangiare sano è la prima cosa fondamentale per il nostro organismo, quindi è una scelta di vita. Nessuno ci obbliga di mangiare in un certo modo, se non quello di mangiare sano per il benessere della nostra salute e per il benessere della nostra vita. Quindi mangiare vegano o mangiare gluten free o mangiare prodotti per intolleranti alimentari non è una malattia, ma è un modo diverso di mangiare. Bene, abbiamo con noi anche uno chef che, diciamo, addirittura quest'anno ha avuto le 3 stelle. È uno chef che, diciamo, inserisce molto nella sua cucina verdure, soprattutto verdure, noto per una famosa insalata chiamata 42, e anzi 21 o 31, mi sembra 42, quindi è, diciamo, anche fisicamente può essere preso per uno chef sicuramente vegetariano. Enrico Crippa, buongiorno Enrico del Duomo di Alba. Buongiorno a te Davide, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutti, diciamo, tra i cuochi tradizionali sei quello che più viene avvicinato così nel pensiero comune di chi si occupa di cibo a questo tipo di cucina. Ecco, tu pensi che veramente che ci sia un divario invalicabile tra le due cucine? Perché vedo, e devo dire, lo noto, posso dire anche con dispiacere, c'è una guerra, vedo sms, non li sto a leggere tutti contro l'uno e l'altro armato, diciamo chi non è vegetariano spara, chi è vegetariano spara sugli altri e sugli altri tipi di cucina. Ecco, tu vedi che siano veramente due mondi che non si possono mai congiungere? Ma sicuramente sono due mondi opposti, questo è indiscutibile, però non è detto che i due mondi non possano camminare insieme. Una cosa curiosa che a noi è successa dopo che fortemente avevamo voluto questo orto per poterci curare i nostri vegetali, la cosa curiosa è che se prima ha un pezzo di carne, sicuramente noi qui in Piemonte non possiamo allontanarci dal discorso animale, perché il Piemonte è una terra ricca di carni di vario tipo. Se prima un pezzo di carne cercavamo l'abbinamento vegetale, ora che il nostro orto ha preso un ritmo con le stagioni sempre più incalzante, è la verdura che comanda, e al rifacimento delle nostre carte stagionali non cerchiamo più un abbinamento di verdura sulla carne, ma cerchiamo un abbinamento animale alla verdura, quindi possono benissimo camminare insieme. È vero che se si parte con un pensiero vegetariano o vegano è bene restare su quello, però anche per chi ha dubbi o non vuole allontanarsi dal mangiar animale, non è assolutamente una cosa che stacca dall'altra, voglio dire. Bene, grazie Enrico Crippa. Sentiamo Maria Rosa da Milano. Buongiorno Maria Rosa. Una radio ascoltatrice. Prego. Il presupposto che l'uomo è nato onnivoro. E siccome ho avuto la figlia che per un certo periodo è diventata vegetariana, però aveva delle carenze alimentari, ha dovuto riprendere a mangiare anche se minima parte della carne. Comunque la questione di base è la qualità del prodotto, perché ho sentito persone che hanno eliminato la carne, hanno mangiato il pesce, hanno trovato il mercurio nel sangue. Chi mangia troppe verdure, i tumori più alti sono stati proprio nelle campagne dovuto agli abusi di pesticidi, eccetera. Mangiamo verdure sane e poi troviamo le colture vicino alle autostrade. Allora, la questione è proprio la base del prodotto. Se un prodotto è sano, è la questione della qualità del prodotto di base e la quantità che si mangia. Io direi che l'alimentazione sana è quella equilibrata. Bene. Senza abusi di niente. Grazie. Di niente. Grazie Maria Rosa, il discorso che lei ha posto sul prodotto secondo me è estremamente importante. Sentiamo Antonio da Torino. Buongiorno Antonio. Buongiorno, io sono un medico, concordo con quanto detto dall'ascoltatrice, volevo però solo aggiungere una cosa, che tra l'altro mi pare che su Repubblica ieri o l'altro ieri ci fosse un servizio esattamente su questo argomento. Non parliamo di alimenti privi di glutine in persone che non hanno la celiachia, non hanno nessun bisogno di fare di alimentarsi con alimenti che non hanno assolutamente nulla di più rispetto agli alimenti normali, semmai sono alimenti da usare in persone malate, ma le persone sane non hanno assolutamente alcun bisogno di utilizzare alimenti privi di glutine, che sono oltretutto costosi, e probabilmente per ottenere i quali magari si utilizzano anche metodologie che magari creano ulteriori artifici nella preparazione degli alimenti stessi. Sì, certo, però come dicevo prima, in molti c'è una filosofia di vita, delle scelte anche ambientali che vanno in questa direzione. Grazie a Francesco Favorito, a Simone Salvini, che ringrazio e ricordo il suo ristorante di Roma, Ops. Il gastronauta. Eccoci di nuovo, appunto, non leggo più degli sms, leggo uno di Esther da Monza che dice che ha questo dubbio amletico, tutte le mattine si alza e dice voglio diventare vegetariana, ma poi di fronte alle frattaglie desiste, quindi fa desistenza. Bene, altri invece che appunto sparano da una parte all'altra, una bistecca non ha lavorazione, la verdura sì, ma che si dice sta gente, quindi ci sono veramente tutta una serie di veramente, vedo però cattiverie, come posso dire? C'è quasi un astio, vabbè, lasciamo perdere, speriamo che non sia così, che col tempo appunto ognuno capisca le ragioni degli altri. Abbiamo con noi Marco Bolasco, perché è un critico gastronomico importante che per anni ha girato e continua a girare l'Italia, poi ne avremo anche un altro, perché voglio chiedere a loro se vedono, appunto hanno visto, vedono un crescere anche nella ristorazione, perché nel privato sicuramente c'è una crescita enorme, ma nella ristorazione se vedono appunto una crescita, diciamo appunto, di queste tipologie di cucine. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno. Ma sicuramente posso dirvi che da, come dire, recensore e scrittore di guide ricevo sempre più richieste in questo senso, ovvero l'aspetto, diciamo, legato alla qualità del piatto, all'aspetto, diciamo, più gastronomico, goloso, è come se non fosse più sufficiente, perché intervengono tutta una serie di scelte che appunto sono naturali piuttosto che ideologiche, piuttosto che di punti di vista del mondo, che richiedono una selezione o comunque una valorizzazione di quello che si va a proporre, che è sempre più complessa e che intreccia peraltro anche problematiche non di poco conto, penso nel nostro caso anche l'aspetto, diciamo, delle intolleranze alimentari. Dopodiché, poiché vi parlo da un mercato di piazza a Torino, vedo intorno a me continuamente un crescere anche sui banchi di una proposta qualificata, quindi per esempio sul fronte vegetariano e del mangiare leggero vedo che non c'è più la proposta, e anche il pubblico non è forse quello di prima, che andava solo al mercato anche per una questione di risparmio, non poca cosa in questo momento, ma in un'ottica di scelta di cose particolari, diverse, ricercate, per esempio l'aspetto dei contadini, del rapporto con i contadini, i coltivatori diretti che portano la loro merce sui banchi, è cresciuto enormemente. Bene, rimani con noi, sentiamo, ora abbiamo anche un altro pasticcere abbastanza noto, ha scritto libri, di pasticceria Golosi, di Salute di Alba, Luca Montersino. Buongiorno Luca. Sì, buongiorno, grazie per avermi contattato. Volevo capire, lei ha fatto una scelta di prodotti definiti non convenzionali nell'uso della sua pasticceria. Devo dire, ecco, è stato facile questo all'inizio, anche diciamo dare dei prodotti ai suoi clienti che appunto non usavano i prodotti tipici, quelli abbastanza importanti della pasticceria. Ecco, qual è stata la reazione del pubblico? Guardi, stiamo parlando di circa 8 anni fa quando io ho iniziato questo progetto. Oggi non passa cena, evento, congresso, dove quando si parla di cibo non si parla anche di alimentazione sana, di nutrizione, di finalmente... Si sta capendo sempre di più che siamo fatti di ciò che mangiamo, quindi l'importanza di quello che mettiamo nel nostro corpo e non solo quello che mettiamo fuori dal nostro corpo, no? Perché siamo tutti molto attenti ai vestiti, all'abbigliamento, però quello che mettiamo nel nostro corpo un po' meno. Ma le dico, 8 anni fa la reazione non era quella di oggi, c'è molta più consapevolezza. 8 anni fa ho avuto qualche difficoltà in più, ma ho creduto al mio progetto con tutto me stesso, non cercando di non mollare assolutamente, anche alle reazioni più disparate, quando magari qualche cliente entrava nel negozio dicendo sono dolci per malati, sono dolci, cioè la convinzione più comune era quella che per mangiare sano devi essere malato, cioè è la cosa più sbagliata, no? Certo. Uno deve mangiare sano quando sta bene, per evitare poi di star male, logicamente, no? Io faccio sempre questo paragone: non si va dal medico quando si sta male, si va dal medico quando si sta bene per farsi vedere, farsi controllare, eventualmente poi prendere in tempo un'eventuale malattia. E lo stesso per l'alimentazione: non si mangia con poco colesterolo o con ingredienti alternativi, con ingredienti più sani, solo quando il dottore o il medico ce lo impone perché abbiamo qualche problema. Dobbiamo farlo noi stessi per il nostro piacere, no? Anche. Bene, grazie Luca Montersino. Bene, abbiamo anche rintracciato in Francia Fausto Arrighi, che per tanti anni, e poi continua ancora a girare l'Italia appunto come grande critico. E lui, faccio quasi la stessa domanda che ho fatto a Marco Bolasco, ecco, in questo giro vagare per l'Italia, vede emergere questo discorso di cucina vegetariana, vegana, anche perché devo dire che soprattutto la Michelin, che lui ha diretto per tantissimi anni, ho visto che appunto a Milano dice appunto cucina vegetariana e mette gioia, però poi sono andato a sfogliare su tutte le altre città e non ho più trovato nessun'altra segnalazione. Fausto, è veramente difficile trovare qualche ristorante che faccia questo tipo di cucina? Certo, innanzitutto buongiorno a tutti. Sì, è un po' complicato. Penso che il cliente che va verso la ristorazione va per mangiare, come si suol dire, no? Quindi il discorso vegetariano diventa un po' più complicato, anche perché poi bisogna avere delle idee, bisogna saper lavorare un pochino il tutto per dare veramente un piatto che sia interessante. Ecco, gioia, ad esempio Milano fa questo tipo di discorso, ma dietro c'è tutto un pensiero, c'è una cultura, c'è un'applicazione che molti non hanno, ecco, quindi siamo ancora agli inizi di questo discorso, certo. Ecco, perché poi... Prego. Bisogna anche capire poi quali prodotti tratti, perché essere vegetariano va bene, ma ci sono ad esempio delle verdure che sono trattate con degli anticrittogamici e altri prodotti che sono anche un po' velenosi, se così si può dire, ecco, è un processo che va visto col biologico, con un certo tipo di trattamento. Volevo chiedere a Bolasco, Marco, secondo te il metro di giudizio di un critico che si appresta a dare un voto, una votazione, un giudizio su un ristorante vegetariano o vegano può essere lo stesso, diciamo, del metro di giudizio di ristoranti comuni tutti gli altri, oppure, diciamo, può essere diverso? Questa è una bellissima domanda, Davide, perché in effetti i critici debbono poter stare al passo con i tempi, esattamente come intelligentemente a volte si può cambiare idea o punto di vista e sensato approcciare alle cose con paradigmi nuovi. Quindi non può essere esattamente lo stesso. È chiaro che se io parlo di grassezza, golosità, opulenza di un piatto, mi riferisco a categorie che sono molto legate a un certo modo di far cucina, che è anche il modo che rappresentava i nostri anni del dopoguerra, se vogliamo anche della crescita economica, della festa, il menù più ricco era anche quello più proteico. Oggi che guardiamo al mondo in modo diverso, che forse siamo accorti anche che di proteine ne abbiamo mangiate troppe e quindi che in alcuni casi cuciniamo in modo diverso o addirittura, come dici giustamente, siamo vegetariani, dobbiamo applicare ai piatti, alla critica delle categorie diverse. Certo. Per esempio, una categoria importante secondo me quando si parla di vegetali è quali sono questi vegetali, da dove arrivano. Quindi, per esempio, io prima citavo i contadini. Beh, la provenienza di un prodotto, la filiera, il fatto che sia stagionale, il fatto che sia legato a un territorio, mi sembrano valori non da poco. Tra l'altro si riflettono nel gusto. Certo. Sempre. Sentiamo Alessandro da Como, radioascoltatore, ho 30 secondi, Alessandro. Sì, grazie. Ascolti, volevo rispondere alla signora che parlava prima di estremismo dei bambini. Ma l'estremismo è il vegano, il vegetariano o l'onnivoro? Visto che sappiamo che i latticini e la carne fanno molto male alla salute, anche le uova, perché si contengono proteine animali che gli esseri umani non dovrebbero per niente mangiarne. Qual è l'estremismo? Essere vegani, vegetariani o essere onnivori? Serve a mangiare qualunque cosa ai bambini? Guardi, cioè, le scuole di pensiero, capire. Mi scusi, ma le scuole di pensiero di che cosa fa male, anche su questo sono molto divise. Io non prenderei una scuola di pensiero piuttosto che un'altra, perché diciamo bisogna guardare l'una e l'altra. Quindi sicuramente anche qui potremmo fare una trasmissione, invitare medici e scienziati e andremo avanti alle calende greche sicuramente. Stefano da Milano, 28 secondi. Davide, sono Stefano Tirelli. Ah, ciao Stefano. Veloce perché ho solo 30 secondi. Sì, davo solo un supporto. È successa la stessa cosa nella medicina in genere. Medicina naturale e medicina tradizionale si sono scontrate dapprima. Poi in realtà si stanno fondendo. La stessa cosa vedrai che succederà nell'ambito dell'alimentazione. Vegani, vegetariani e tradizionisti si incontreranno sicuramente. È giusto che ci sia lo scontro, ma questo porterà a ulteriore arricchimento della cultura gastronomica. Beh, questo è un auspicio anche da parte mia, ma io volevo chiudere con una chiosa, che è questa. L'hanno un po', diciamo, accennata in molti. Il problema è il prodotto. È il prodotto, la qualità del prodotto, da dove arriva il prodotto, come è stato allevato questo prodotto. Credo che quindi la base di tutto, anche di questa coincidenza oppositorum, possa venire però tenendo ben presente sempre il prodotto. Bene, bellissimo questo viaggio, non cito tutti gli sms perché veramente c'è di tutto, e di tutto e anche di brutto, devo dire, mi spiace. E vi do appuntamento domani con il riposo del guerriero e ogni giorno con la pillola alle 11:05. Un caro saluto da Davide Paolini.